un brano inedito regalato apposta per l'occasione, per aprire un varco dentro le coscienze. Dal nono al decimo seguirò la mia via, pilastro germano ad altri tre, c'è la mia corona storica e la dimensione storica, parco di energia e l'opportunità per mettermi alla prova. Con la giustura simmetria che però non altera, rinnovamento solido però c'era, sopravvento cinto, mantiene stabile, so che l'uomo fragile, non le azioni complica, testimone qui, come tutto crolla, testimone qui, come tutto salva, e la terra del mondo non lo lascia. We'll be right back.